Il principe riconoscente. Le foreste sono luoghi incantevoli e pacifici, con storie e creature con segreti profondi e oscuri. Al centro di una di queste foreste, un re si era allontanato dal suo solito sentiero. Vagando nella foresta, era preoccupato di non riuscire a trovare la strada di casa. Proprio in quel momento si imbatté in uno strano uomo. La sua schiena era curva, aveva un bastone per reggersi e la sua barba arrivava fino a terra. Tu chi sei? Cosa stai facendo qui nella mia foresta? Ti sei perso, contadino? Non sono un contadino, sono il re di queste terre. Queste foreste sono mie, ma sì, mi sono perso. Potresti aiutarmi? Dici di essere il re? Molto bene. Bene, mio re. Queste foreste sono mie e solo io conosco il sentiero per uscirne. Posso mostrarti la strada se ti va, ma vorrei qualcosa in cambio. Il re fu colto di sorpresa dal comportamento del vecchio, ma doveva tornare a casa. Aveva bisogno di stare con sua moglie e il suo bambino appena nato. Cosa vorresti in cambio? Dimmi il tuo prezzo. Non ho bisogno di nessuna di quelle cose. Ti sembra che io ti somigli? No, devi promettermi che quando ti accompagnerò alle porte del tuo regno, qualunque cosa ne esca per prima, me la darai in cambio. Ti darò un giorno di tempo. Devi promettere che sarà mia per sempre. Qualsiasi cosa potrebbe uscire dal cancello, pensò il re fra se stesso, ma sapeva anche che stava vagando da troppo tempo. Sicuramente tutti erano preoccupati per lui. Prese la sua decisione, strinse la mano al vecchio e accettò l'accordo. Nel seguire il vecchio ricurvo attraverso la foresta, il re fu più volte divertito e piacevolmente sorpreso dalla velocità e dalla flessibilità del vecchio. Lo condusse attraverso laghi e spazi stretti, in qualche modo stando sempre in testa. Alla fine, il vecchio rimase fedele alla sua parola, assicurandosi che il re ritrovasse la strada di casa. Ricorda la tua promessa, mio re. Il re fu accolto con fiori e grida di gioia. La gente era estasiata dal vederlo sano e salvo, ma una persona piangeva di gioia, la sua regina. Prima che il re potesse dire qualsiasi cosa, lei si precipitò verso di lui con il loro figlio tra le braccia. Attraversò le porte, diventando così la prima cosa che il vecchio potesse vedere. Quando vide il bambino, il vecchio sorrise. Il re si voltò e lo guardò mentre entrava nella foresta. Mio re, sembri preoccupato. Che cosa c'è? Dimmi, cosa ti turba? Non sei felice di essere a casa? No, questo non è vero. Sono felicissimo di essere a casa e con mia moglie e mio figlio, ma ho commesso un grave errore, mia cara. Il re disse tutto alla sua regina, ogni piccolo dettaglio. La regina rimase scioccata dalla storia e si chiesero cosa avrebbero fatto adesso. Forse ho un'idea. Il re chiamò il suo ministro e chiese se ci fossero bambini nati lo stesso giorno di suo figlio. Il ministro confermò che una bambina era nata da una coppia di contadini la stessa notte del principe. Il re convocò la coppia e la loro bambina nelle sue stanze. Mio re, ci hai fatto chiamare. Come può un umile uomo come me essere d'aiuto? Mio caro, il tuo re ha un grande favore da chiederti. Una cosa che sarà difficile per te da accettare. Ma in cambio ti ricompenserò grandemente per il sacrificio che farai per il tuo regno. Il re parlò al contadino, spiegandogli tutto. Sapeva che sarebbe stata una decisione difficile per lui. Voleva che la figlia neonata del contadino prendesse il posto di suo figlio con il vecchio. Il re promise di prendersi cura della coppia di contadini per sempre se avessero fatto questo sacrificio. Il mattino seguente, il vecchio uomo si fermò ai margini della foresta, aspettando che il re arrivasse. Passò del tempo prima che i cancelli si aprissero. Il re avanzò a grandi passi verso il vecchio, guardandolo con rabbia. Scese dal suo cavallo, con una piccola cesta coperta da un panno bianco. Consegnò la piccola bambina piangente al vecchio. Il vecchio aveva un sorriso malvagio. Malvagio e felice di aver ottenuto ciò che voleva. Stringendo la cesta, zoppicò nella foresta e portò via la bambina. Il re poté semplicemente osservarli mentre entrambi sparivano nella foresta. Anni dopo, il principe era cresciuto. Era gentile, intelligente e disponibile con tutti quelli che lo circondavano. Mi fa piacere vedere che il regno che mio padre ha costruito è ancora in buona forma. Le persone sono felici, hanno cibo da mangiare e mezzi di sostentamento per andare avanti. Cosa potrebbe volere di più un re? Mentre il principe camminava felice per le strade, a distanza la moglie del contadino lo osservava. Guardò suo marito, che scosse la testa, ma mentre si voltava, corse dal principe. Si mise di fronte a lui, bloccandogli la strada. «Non mi conosci, mio principe, ma devo dirti una cosa. Sì, il re è un bravo uomo, si è preso cura del suo regno, ma a quale costo? Al tuo, alla nostra. Chiedigli della mia bambina, mia figlia!» Il principe si preoccupò, non sapeva di cosa stesse parlando la donna. A tavola, quella sera, il principe chiese ai suoi genitori che cosa fosse successo. «Sii sincero con me, padre. La donna stava mentendo o c'è di più nella storia?» Il re gli disse tutto. Del viaggio nella foresta, del vecchio, una promessa e un sacrificio per la gloria del regno. «Devo trovarla. È solo grazie al suo sacrificio che sono qui oggi. Non posso essere un principe o un re finché lei non verrà liberata. O la riporterò indietro o prenderò il suo posto. È chiaro? Padre e madre? Devi fare quello che pensi sia giusto, come ho fatto io.» Il mattino dopo si vestì con gli abiti comuni di un contadino per nascondere la sua identità. Prese con sé una scatola di semi, in modo che, se si fosse perso nella foresta, avrebbe potuto trovare la strada di casa. Quindi, ancora una volta, proprio come suo padre, il principe vagò nella foresta infinita. Il principe girovagò per qualche giorno. Stanco, dopo pochi giorni, si addormentò nella foresta. Nel cuore della notte fu svegliato da un pesante bastone. «Oi, oi, questa è la mia foresta. Come ti permetti di dormirci senza il mio permesso? Chi pensi di essere? Un reale? Svegliati, piccolo sacco di polvere!» Il principe si svegliò, spaventato ma contento di vedere il vecchio. Il vecchio aveva lo stesso aspetto. Camminava zoppicando e sembrava scontroso. «Mi dispiace, signore, ma ho bisogno di un lavoro. Sono affamato e in gamba. Se potessi trovare nel suo cuore la voglia di darmi da mangiare e un lavoro per qualche giorno, ne sarei molto grato. Sembri un uomo gentile e generoso.» Il vecchio non sembrava né gentile né generoso, ma si rese conto che questo ragazzo poteva essergli utile. «Sì, potresti essermi utile. Devi seguire le mie regole e sarai nutrito e curato. Ma infrangi una di quelle regole e te la farò pagare. Capito?» Il vecchio usò la magia per accecare il giovane principe e guidarlo attraverso la foresta. Il principe si ricordò di lasciar cadere i semi. Il vecchio godé di nuovo dei piccoli incidenti. Il principe cadde nel lago. colpì la faccia contro un albero. Di tutte queste cose il vecchio godeva. Alla fine raggiunsero la casa del vecchio. Qui è dove dormirai. Non parlerai a nessuno, né farai domande. Farai come ti è stato detto, d'accordo? La cena sarà dentro e poi domani inizierai il tuo lavoro. Il principe acconsentì e il vecchio si allontanò. Posò la borsa. Era nervoso per come sarebbero andate le cose. Le ore passarono e arrivò così l'ora di cena. Il principe dormiva e una ragazza camminò verso di lui. Lo strattonò due volte, poi tre volte. Alla fine lo prese a calci. «È ora di svegliarsi, dormiglione. C'è cibo da mangiare. Avrai molto lavoro da fare domani. Il vecchio non ti lascerà mai più riposare. Faresti meglio a mangiare». Insieme andarono dentro. Il principe sapeva nel suo cuore che questa era la ragazza, quella che era venuto a cercare. L'aveva trovata. Si sedettero insieme al tavolo della cena. La ragazza camminava su e giù dalla cucina, servendo loro il cibo. Il principe non poteva smettere di fissare la ragazza. Al mattino, il vecchio diede al principe molti compiti da svolgere. Dalla raccolta di frutti dall'albero più alto, alla raccolta dell'acqua nel lago, alla pulizia dei piedi del troll e alla spazzolatura dei denti del vecchio, il principe doveva fare tutto. Durante tutto questo, la ragazza lo guardò, preoccupata e orgogliosa, tutto con un sorriso sul viso. Ma alla fine gli fu dato un compito molto difficile. Gli venne chiesto di andare nel campo di fieno e tagliare abbastanza fieno per dare da mangiare ai cavalli per una settimana, altrimenti non avrebbe ricevuto cibo per tre giorni. Che compito ti ha dato? Desidera che tagli tutto questo in un giorno. Come posso fare questo? Oh, sfortunata creatura! Ascolta quello che ho da dire, è la tua unica via d'uscita. Così il principe portò due cavalli dalle stalle al campo di fieno. Tagliò diversi piccoli mazzi di fieno e li mise davanti ai cavalli. Li legò insieme e cominciò a cavalcare attraverso il campo di fieno con una grande falce in mano. Per la sua gioia, il piano funzionò. Alla fine della giornata, tutto il fieno sul campo era stato tagliato. Il ragazzo si sedette sui cavalli stanchi e li nutrì mentre camminava lentamente verso la casa del vecchio. La ragazza sorrise quando lo vide. Il vecchio sembrava sconvolto. Poi, il mattino seguente... «Ho qualcos'altro per te. Questa è la mia pregiata mucca nera. Devi mungerla completamente. La mia scorta di latte è terminata. Mungila fino all'ultima goccia di latte!» Così che non sarò mai più affamato. Mungerla fino all'ultima goccia? Tutto in un giorno? Com'è possibile? Sì, non tornare a casa se non sei in grado di portare a termine questo compito. Il principe provò un paio di volte, ricevendo pugni e calci in faccia dalla mucca. Alla fine si sedette e rinunciò. Aspettò la ragazza, sperando che sarebbe venuta in suo aiuto. «Cosa faresti senza di me?» La ragazza salvò di nuovo il principe, aiutandolo a scaldarsi le mani. Non appena il principe usò le mani tiepide per mungere la mucca, questa iniziò a reagire. Bottiglia dopo bottiglia fu pieno di latte della mucca nera. Dopo che la ragazza gli abbia augurato buona fortuna prima di andarsene. Alla fine della giornata, 20 bottiglie di latte erano piene, abbastanza per durare a lungo nella loro casa. Il vecchio arrivò e vide il principe sorridente che beveva un bicchiere di latte. Alzò il bicchiere. Il vecchio sembrava davvero arrabbiato. «Lascia la mia casa! Non so come... Ma hai violato le mie regole in qualche modo. Questi compiti erano pensati solo per te. Ti sei fatto aiutare. Non mi farò imbrogliare ancora. Via dalla mia vista!» L'ho aiutato io. Punisci me, non lui. Il mago era ora nella sua vera forma. Imprigionò il troll. Ordinò al ragazzo di lasciare la sua casa entro la mattina e di non tornare mai più. Rompi il suo bastone, è lì che risiede il suo potere. Non posso più rimanere qui. Voglio vedere il mondo. Ha imprigionato il troll e me. Rompi il suo bastone. Il principe guardò il troll triste, raccolse il suo coraggio. Sapeva cosa doveva fare. Amava questa ragazza e non poteva lasciarla lì. Lasciò cadere la sua borsa, prese un'ascia. Liberò il troll e insieme si infilarono nella finestra che la ragazza aveva lasciato aperta. Cercarono il mago. Camminando silenziosamente attraverso la casa, raggiunsero la stanza più grande. All'interno trovarono il mago sveglio che teneva le mani della ragazza e rideva. Pensavi di potermi sconfiggere o prendermi in giro? Non hai nessuna possibilità, ragazzo. Ma il principe non aveva paura. Lui e il troll insieme corsero verso il mago, dandogli così due bersagli da colpire e le rendendo così difficili. Funzionò. Mentre il troll veniva colpito, il principe spinse il mago e prese il bastone. Liberò la ragazza, che corse al fianco del troll. Non ferirai più nessuno, per sempre! Quando il bastone magico fu spezzato, il vecchio cadde a terra. Di nuovo diventò grigio e vecchio. Alzò le mani per chiedere pietà. Ce ne andiamo! Non ferirai più nessuno. Niente più promesse da mantenere, niente più compiti. Sono il tuo principe, mi obbedirai. Ce ne andiamo e non ti vedremo mai più. Andando via dalla casa del vecchio, trovarono i semi che il principe aveva lasciato. Quei semi si erano trasformati in una scia di rose. Tenendosi per mano, si diressero verso il regno. Con il troll dietro di loro, ovviamente. Il principe presentò la ragazza ai suoi genitori, e al re e alla regina. Il regno era pieno di gioia e amore nel cuore di tutti. Lei sarà la mia regina. Lei è coraggiosa e intelligente, coraggiosa e bella. Non posso chiedere di più. E insieme vissero felici e contenti.